Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di musica, raccontiamo la storia di un musicista che parte, diciamo, dalla zona meno illuminata del palco, ma che guadagna una grande fetta di celebrità, diventa parte del successo del cantante che lui accompagna, e capita a molti. Oggi si parla di un chitarrista, cantante italiano col quale ho avuto anch'io l'onore e il piacere di collaborare, di suonare, uno che è stato travolto da quella stessa vita spericolata che per molti anni ha suonato con la sua chitarra. Ha lasciato un grande ricordo in molte persone. Parliamo di Massimo Riva. Lo facciamo anche grazie a un ascoltatore che abbiamo in linea, Manuel Tosati. Buongiorno Manuel. Ciao Enrico. Ciao Manuel. Buon pomeriggio. Senti, tu sei uno di quelli che ci ha segnalato Massimo Riva, che hai chiesto che noi raccontassimo la sua storia. Perché, Manuel? Ma perché è sempre stato un artista che ho apprezzato. Negli anni l'ho sempre ascoltato banalmente, anche soltanto su YouTube quando sto lavorando, e mi è dispiaciuto il fatto che più passa il tempo me ne se ne parla. È vero, anche è vero. Sulle radio, paradossalmente, dove passo soltanto musica italiana. E beh, le radio vogliono gli eroi di una stagione. Esatto, esatto. Mentre le sue canzoni trovo che cambiano le mie stagioni, ma continuano a parlarmi. Benissimo. Manuel, allora ti ringrazio e noi cercheremo di rimediare, perché noi non, insomma, siamo una radio particolare. Perfetto. Ciao, grazie Manuel. Grazie al programma e grazie a te. Ciao Enrico. Il fatto è che vivo a paura, è una canzone degli anni 50 rivisitata, il fatto è che io sono fatto apposta per presentarvi Vivo a Lula, buonissima. Questa era una sconclusionata presentazione di Massimo Riva, Bebop a Lula di Red Ronnie. Classe 1963, Massimo Riva, una voce particolare in contrasto con un aspetto fisico altrettanto particolare. Lui era veramente gracile, mingherlino, molto secco, eppure lui non si è mai fatto problemi per non avere muscoli, per non avere l'aspetto fisico da vitellone da spiaggia romagnola, anche se lui in Emilia Romagna ci è nato. I suoi muscoli sono sempre stati la chitarra elettrica. Lui la impara a suonare da bambino, diventa la sua compagna di vita. Massimo Riva nasce nel posto giusto al momento giusto, perché lui è di Zocca, provincia di Modena, è un paesino in alto sull'Appennino, un paese di montanari, così li chiamano quelli di Bologna. Eppure Zocca è destinato a diventare uno dei punti di riferimento del rock italiano, perché lì c'è nato Vasco Rossi. E Zocca a metà degli anni 70 è un paese nel quale non è che ci siano molti modi per divertirsi: o si va a Bologna o ci si inventa qualcosa in paese. E così un gruppo di amici, tra cui appunto Vasco Rossi, ma c'è anche Gaetano Curreri, si inventano una delle prime radio private italiane, Punto Radio. Punto Radio a colazione, chi ti dà la dimensione? Tu mi devi spiegare che cosa sono queste foglie di Punto Radio, perché io ancora non ci ho capito niente. Vieni qui, Ricciolino, che te lo spiego io. Abbiamo pensato questa volta che una festa in fondo qui è poco. Allora quindi abbiamo pensato di farne 5, ma non 5 sparse in un lunghissimo tempo, però 5 dietro fila, un giorno dopo l'altro. Una cosa appunto così, tipo Follia di Punto Radio. La voce principale di Punto Radio, l'avete riconosciuto, è un imberbe giovane Vasco Rossi. Si trasmette da una villetta di Zocca, ogni tanto arriva la polizia postale, perché in quegli anni si cerca di arginare la nascita delle radio private, ci sono provvedimenti temporanei di sequestro, ma insomma ormai è come cercare di rimettere il dentifricio nel tubetto, cioè ormai sta esplodendo il momento delle radio. Allora si chiamavano radio libere. La radio si sente solo nella zona di Zocca, ovviamente serve a fare sentire un po' meno soli i ragazzi del paese. Ci sono le piccole pubblicità di quelle piccole radio di allora. Tutto si svolge in un ambiente familiare, i ragazzi si conoscono dai banchi di scuola, e poi c'è qualcuno più piccolo che si intrufola tra i grandi, e così inizia Massimo Riva, che ha 10 anni meno di Vasco Rossi, ha solo 12 anni, ma comincia già a frequentarla quella radio. E Massimo Massimino è considerato la mascotte della radio. Vasco lo mette a sorvegliare la trasmissione non stop della domenica. Una domenica però lui prende un'iniziativa, stacca la registrazione, le bobine, e comincia a trasmettere lui in diretta, e il ragazzino con la voce da uomo stupisce, si guadagna la fiducia di tutti. Per lui tutto ciò che non era musica era una cosa accessoria. Io mi ricordo, lui bambino proprio, aveva un mangiadischi piccolino e sceglieva la canzone. Tu gli chiedevi, insomma, mettimi su Celentano, e lui trovava il disco di Celentano e ti diceva il nome della canzone, eccetera. Ed era una cosa che io non ho mai visto fare nessun altro, ecco, onestamente. Lì, cioè, già si capiva che in qualche modo lui aveva qualcosa di speciale, un feeling speciale con la musica, cioè era proprio lui e la musica erano una cosa, vivevano in simbiosi in qualche maniera. Questo era Giuliano Riva, il fratello di Massimo. E poi si comincia a suonare, c'è una leggenda che nel 78 Massimo fa sentire a Vasco un giro armonico di chitarra, e che su quel giro si narra Vasco abbia composto Alba Chiara, la storia è più che credibile. Insomma, la chitarra di Massimo comincia a farsi sentire. Nel 1978-79 Vasco Rossi comincia a fare i primi concerti. Certi, l'album era Non sono mica gli americani, insomma quel periodo lì c'è una band che lo accompagna, e nella band ci sono già Massimo Riva e Maurizio Sollieri. Pochi anni dopo arriverà anche Claudio Gollinelli, detto Il Gallo, che suona ancora adesso con Vasco Rossi. Sul palco ci andavo anche perché c'era Sollieri che suonava da Dio, e quindi io ero tranquillo che comunque non faceva una brutta figura. Poi Massimino di fianco faceva il matto, divertiva moltissimo, quindi mi aiutava molto questo fatto. E poi il fenomeno Vasco Rossi comincia a farsi strada, arriva Sanremo dell'82, dell'83, insomma Vasco Rossi sta diventando un grande fenomeno di massa, la Steve Roger Band è sempre con lui, però nel frattempo è il periodo nel quale alcune band, gli stadio che si erano affiancati inizialmente a Lucio Dalla, la Steve Roger Band, gli Champagne Molotov che suonavano con me, insomma c'è il periodo nel quale le band dei cantautori cominciano a fare dischi, e la Steve Roger Band si segnala con un primo album che si intitola I Duri Non Ballano, e la strada sembra proprio quella giusta, quella che va verso il successo. Il falco e il gabbiano. 1987, anno fondamentale per Massimo Riva, perché la Steve Roger Band comincia a prendere coraggio, si deve provare a dare questo colpo d'ala verso il successo, e naturalmente questo porta a una frattura del legame con Vasco, lo racconta anche Giuliano, il fratello. Massimo e Vasco erano i più bravi, non c'è dubbio, dal punto di vista musicale, anche dal punto di vista della capacità di tenere la scena. E chiaramente tra le prime donne ci sono i momenti di grande amore, i momenti di grande litigio, grande battibecco, quello della separazione fu un momento così, ma sostanzialmente loro, secondo me, non riuscivano, la storia poi lo ha dimostrato, non riuscivano a non vivere, a non stare insieme. Beh sì, io parlerei di una triade, perché Sollieri è all'interno di questa triade che allora sembrava perfetta, che lo è stata per molto tempo, ma in questo momento della nostra storia la collaborazione sembra terminata. Certo, c'è un'amicizia solida, Vasco è un po' il fratello maggiore dei due, il rapporto va al di là delle collaborazioni professionali, però a questo punto sembra ci sia la fine di un legame, i due in qualche modo hanno scopi diversi da perseguire. Con Riva il rapporto era un rapporto molto più intenso, di amicizia, di affetto, come un mio fratello più piccolo, era simpatico da matti, e quindi starci insieme era divertente, andavamo sempre in macchina insieme, abitavamo insieme, insomma era un rapporto molto intenso di complicità. Però adesso la Steve Roger Band è sulla pista di decollo, e Massimo Riva, qualche sassolino dalla scarpa, adesso che ha una sua band, può anche toglierselo. Finalmente adesso riusciamo a vedere qualche soldo. Prima arrivavamo con l'acqua alla gola fino all'estate. Eravamo pagati come orchestrali durante la tournée. I soldi ce li spendevamo tutti subito. E poi, per il resto dell'anno, stavamo a casa. Invece, appena ci siamo separati da Vasco, abbiamo cominciato a vivacchiare tutto l'anno. Quindi, cominciare a lavorare così è stato un buon affare, sia a livello economico che a livello artistico. E nell'88 esce il secondo album della Steve Roger Band, con canzoni composte quasi tutte da Riva e Solieri, nessuna collaborazione con Vasco Rossi, un taglio netto, e Vasco Rossi cambia band anche lui, arrivano altri musicisti, uno arriva proprio dalla band di Ruggeri, che è Alberto Rocchetti, e poi arrivano Braido, arrivano Davide Devoti, arriva Martinez al basso, insomma si rinnova completamente la lineup di Vasco Rossi. Ma nel frattempo la Steve Roger Band guarda avanti ed esce con un album, con un singolo particolare, Alzati la gonna, singolo che peraltro dal titolo all'album, che ha un grande successo, diventa uno dei tormentoni dell'estate dell'88. Non mi fa soffrire. Le cose cominciano ad andare veramente per il verso giusto. 100.000 copie vendute, il Festival Bar, il delegato come miglior gruppo dell'anno. La Steve Rogers Band non è più la band di Vasco Rossi. Ci sono le premesse per un nuovo album e addirittura per una partecipazione a Sanremo. Nell'89 c'è una categoria di mezzo che si chiama Emergenti e la Steve Rogers Band arriva lì con una canzone che si chiama Uno di noi. Ma a quel punto dalla roulette esce lo zero, la Steve Roger Band viene eliminata subito e il gruppo viene riportato con i piedi per terra dopo il successo dell'estate precedente. Massimo prende in mano la situazione e si riparte in tour, anche perché lui è un tipo preciso che segue ogni aspetto della promozione con molta cura. Lui cercava sempre la perfezione, era un perfezionista, pur essendo contrariamente a quello che poteva sembrare, cioè se tu hai un'immagine di un musicista, specialmente un musicista rock, tutto arruffato, tutto scarcagnato, magari vestito male, ti dà l'idea di uno confuso. In realtà lui era uno precisissimo in tutto quello che faceva, cioè era uno, ripeto, che metteva una ciabatta di fianco all'altra. È sempre Giuliano, il fratello, che parla e che racconta di un periodo particolare, perché Vasco Rossi parte in tour, comincia a riempire gli stadi e nel frattempo invece la Steve Roger Band comincia a segnare il passo. Forse da lì partono anche una serie di problemi collaterali per Massimino. È un momento fondamentale, perché qui o si mette da parte l'orgoglio e si recupera il rapporto con Vasco, oppure si fa un altro tentativo per camminare con le proprie gambe. Massimo Riva e la Steve Roger Band scelgono questa strada, chiamano attorno a sé degli amici, tra cui il sottoscritto, scrivono loro delle canzoni e alcune se le fanno scrivere. Io collaboro per esempio con una canzone che è rimasta in qualche modo, si chiamava Polvere d'oro e l'album si chiamava Solo donne. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Massimo, anzi di Massimino, Massimino Riva, chitarrista, uomo di spettacolo, cantante, che nasce artisticamente e non a Zocca, appunto radio, e poi tutta la sua epopea a fianco di Vasco Rossi e poi la Steve Roger Band e poi il successo di Alzati la gonna e poi il sogno che in qualche modo si incrina e poi tante cose, tante amicizie, tante collaborazioni. Una che ricordo con grandissimo piacere è una collaborazione in un album del mio chitarrista Luigi Schiavone. La canzone si chiamava Pelle Rossa e l'abbiamo cantata tutti e tre, Massimo, Luigi e io, e una volta abbiamo fatto anche un concerto allo Stadio Olimpico di Roma, nella curva dello Stadio Olimpico, nel quale lui è venuto a trovarci. C'è una bellissima performance su YouTube di questo concerto. Io mi ricordo ero in pantaloncini corti mentre cantavo Pelle Rossa. E quello era un periodo in cui io ricordo un sacco di serate, di notti passate con Massimino, con Luigi. Era veramente, insomma, una persona di grande acume, di grande spirito, e uno, insomma, che la vita amava viversela fino in fondo, però era un ottimo compagno di vita. E poi arriva il 1991, la band in qualche modo si ricompatta con quello che è il suo primo compagno di viaggio, cioè con Vasco Rossi, perché quando alla base, insomma, c'è un'amicizia, certe cose si lasciano alle spalle, certe cose vengono rimosse, si va avanti, ed è lo stesso Vasco Rossi che commenta così questo ritorno insieme. Poi dopo mancava Massimo sul palco, capito? Per la gente, per la storia, cioè mancava anche a me, quindi ho messo da parte tutte le mie orgoglio, rabbia, eccetera, e punizioni valutare, e l'ho ripreso a suonare. E così il magrolino, il filiforme Massimo Riva torna sul palco di Vasco Rossi, la coppia si ricompone, o meglio, il trittico si ricompone, Riva, Rossi, Solieri. Abbiamo recuperato l'amicizia, direi, cioè, se vogliamo essere precisi, abbiamo recuperato quello che di bello c'era nel nostro rapporto, ovvero l'amicizia e quindi di conseguenza l'intesa musicale. Non si può dimenticare un periodo della propria vita così bello, così pieno di cose, di stimoli, di entusiasmi, di pazzia. Ma l'animo di Massimo è comunque inquieto, rimane nella band che accompagna Vasco Rossi, peraltro ci sono anche Maurizio Solieri, c'è il Gallo, Claudio Gollinelli, però c'è anche la voglia di fare un disco da solo, ancora una volta chiama a raccolta i suoi amici, ancora una volta arrivo anch'io e scrivo con lui una canzone che ricordo veramente con piacere, la canzone si chiamava Maledetti. A questo punto abbiamo un testimone di quell'era, di quell'epopea, di quel periodo, di quella bella persona, perché per parlare di Massimo Riva bisogna parlare anche e soprattutto con Maurizio Solieri. Buongiorno. Ciao Enrico, come va? Tutto bene. Tutto bene, sono molto contento di questa cosa perché, cioè, io e te siamo stati grandi amici di Massimo Riva e devo dire che non se ne parla mai abbastanza, per cui io direi che è una bellissima cosa questa. Succede così, il primo momento tutti ne parlano, era il più bravo, era il più bello, era il più simpatico, e poi dopo Esatto. Arriva un pochino di oblio. Senti Maurizio, come vi siete conosciuti voi? Cioè, tu ti ricordi la prima volta certo. che l'hai visto. Assolutamente, conobbi Vasco nel marzo del 77, finito il servizio militare, anch'io fui ingaggiato appunto nello staff di Punto Radio e niente, vedevo sto ragazzino, ho capito che premeva e scalpitava, perché chiaramente era già molto intelligente, molto avanti per la sua età, e ci incontrammo soprattutto negli studi di Punto Radio facendo le pubblicità, registrando delle pubblicità, inventandoci delle gag che facevamo all'epoca, insomma, perché anche Massimo, come tu ben ricordi, era un amante delle imitazioni, delle cose, eccetera, eccetera. Per cui questo ragazzino lo vedevo appunto negli studi di Punto Radio e poi da lì, insomma, lui scalpitava, voleva essere a livello di noi ragazzi più grandi, certo. No? Per cui, insomma, fin da ragazzino Massimo già dimostrava di essere veramente un talento. Parliamo di musica. Voi, esatto. Se devo pensare a una coppia di chitarristi italiani, come uno dice che, so, Keith Richards e Mick Taylor, se devo pensare all'Italia mi vengono in mente Riva Solieri, insomma. Assolutamente. Siete la coppia con peraltro dei ruoli, insomma, abbastanza definiti, insomma, lui certo. Era la ritmica, i cori, e tu eri la chitarra solista, come si diceva una volta. Allora, praticamente sono stato io ad aver insegnato a suonare la chitarra a Massimo. Massimo sapeva qualche accordo in prima posizione, hai capito? Sì. Suonando la chitarra acustica. Poi io pian pianino gli ho insegnato a suonare la chitarra elettrica, i riff storici della storia del rock, per cui comunque c'era proprio questa suddivisione, nel senso che Massimo comunque faceva le ritmiche fatte benissimo e comunque, voglio dire, mi armonizzava anche le parti di solista. Quando c'erano dei riff che magari nel disco avevo fatto io armonizzati, dal vivo assolutamente Massimo non aveva nessun problema a rifarli. Anzi, se avesse voluto studiare, perché lui, non, come si suol dire, non aveva voglia di fare un cazzo, no? aveva voglia di correre dietro le ragazzine, voleva essere un po' il Vasco Rossi numero due, voleva già fare la piccola rockstar, però se avesse continuato a esercitarsi e a studiare sarebbe sicuramente diventato un ottimo chitarrista solista, hai capito? Per cui insomma diciamo era un duo molto bello che funzionava molto bene. Siete il duo tra i chitarristi. Poi Enrico, una cosa bellissima, primissimi concerti nelle balere, nei localazzi, non uscivamo dall'Emilia Romagna, hai capito? Assolutamente. Perché poi Vasco era molto famoso come DJ, per cui andavamo a suonare nei locali, nelle in grandi cui lui balere, aveva avuto successo cui, come DJ. In cui lui aveva avuto e continuava ad avere successo come DJ. Per cui la cosa bellissima era che comunque io fin da ragazzo sono sempre stato un chitarrista abbastanza impostato dal punto di vista estetico, no? Sì, ho sempre invidiato Pete Townshend, Eddie Van Halen, tanti altri, ma non ero in grado di suonare bene o discretamente facendo dei salti, facendo della scena. E Massimo invece correva avanti e dietro come un matto per il palco, certo. E poi mi si metteva di fianco mimando perfettamente i miei soli, tant'è che chi non si intendeva di chitarra era indeciso su chi fosse dei due. Dicevano, cavolo, bravissimo quel ragazzino, un chitarrista della Madonna. Senti, l'ultima domanda che ti devo fare, insomma, gli ultimi tempi di Massimino, in qualche modo, come dire, c'è stato un cambiamento negli ultimi tempi. Allora, Massimo tornò nel 1995 quando facevamo i due concerti a San Siro di Rock sotto l'assedio. E fu una festa, perché figurati, ero contentissimo di ritrovare il mio vecchio pard, come si suol dire. Poi dopo, nel 96, fui licenziato dalla band, con Massimo ci vedevamo molto poco, no? Quindi le poche volte che io lo vedevo, praticamente non lo vedevo poi così tanto diverso da come era prima, però mi dicevano che appunto aveva delle frequentazioni di sostanze pericolose. Per cui mi ricordo che lo vidi l'ultima volta proprio nel 1999, pochi giorni prima che lui ricominciasse le prove o incominciasse le prove per il tour di Vasco, e lo passai a prendere a casa in centro a Bologna. Quando si tolse gli occhiali da sole vidi queste pupille dilatate, quelle che conosciamo bene. Esatto, capì che c'era qualcosa che non funzionava. Andammo a cena tranquilli, eccetera eccetera, e poi dopo purtroppo la notizia arrivò dopo un po' di tempo e chiaramente fu una dolore. Sì, perché Massimo comunque ancora adesso, cioè noi della band, della vecchia Steve Rogers Band, Mimmo Camporeale, tutti gli altri eccetera eccetera, ne parliamo sempre come se fosse vivo e continuiamo a imitarlo come se lui fosse vivo, come quando era presente, come quando facevamo le prove, quando facevamo i dischi in sala di registrazione, cui per noi non è mai morto, in poche parole, sì, capito? È vero. Tutto qui, insomma. Maurizio, sei stato carinissimo, ma non ne dubitavo. Ma vuoi scherzare? Enrico, per me è stato un grande onore poter riparlare di Massimo Riva, soprattutto con una persona come te, hai capito, che lo conosceva bene. E poi non dimentichiamoci le collaborazioni che abbiamo fatto, un pezzo fra tutti, Polvere d'oro, ne abbiamo parlato. Più belle che la Steve Rogers, cioè hai capito? Un pezzo che è rimasto, sì. hanno fatto insieme, assolutamente. Grazie Maurizio, carissimo, ti abbraccio. Un grande abbraccio, quando vuoi chiamare io sono sempre felicissimo di queste cose. Va bene, a prestissimo. Ciao Enrico, ciao. Maurizio Solleri, un grande, rimane il rammarico che altri grandi, uno in particolare, insomma, mi abbiano detto che non avevano tempo per parlare di Massimo Riva. Oggi è il 31 maggio, non abbiamo scelto a caso di raccontare questa storia perché il 31 maggio è il giorno della fine del viaggio di Massimo Riva. Viene trovato morto nel suo appartamento di Bologna, l'autopsia parla di crisi respiratoria, la causa del decesso è chiara, overdose di eroina. Rimane un rimpianto da parte di tutti quelli che se ne sono accorti troppo tardi, e ahimè io sono in questo gruppo di persone. Evidentemente negli ultimi tempi questa era la sua compagna di viaggio. Il mondo della musica rimane sconvolto dalla notizia. Lo stesso Vasco Rossi dichiara in più di un'occasione di aver perso un fratello, un amico insostituibile. C'è sempre un attimo dove Vasco Rossi fa una dedica al suo grande amico. Sono storie di vite straordinarie quelle che abbiamo scelto di raccontarvi ogni giorno, e la vita di Massimo Riva è stata breve ma straordinaria, un grande compagno di avventure musicali, innanzitutto ovviamente per Vasco Rossi, per Maurizio Sollieri che abbiamo ascoltato prima, ma anche per le persone che lo stimavano e che hanno collaborato con lui lungo la sua strada, e io ho avuto l'onore e il piacere di essere tra queste. Noi vi aspettiamo con altre storie segnalate via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete storie che secondo voi meritano di essere raccontate, oppure interagite con me sul sito di Radio 24, sul mio Facebook, sul mio Twitter, su quelli del Falco e il Gabbiano. Insomma, se mi cercate sapete che mi trovate. Ciao, a domani.